A tempo di sport. Vi ricordo allora i contatti 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, dirci che cosa ne pensate di questa giornata e poi dopo le 18 anche per parlare della questione degli striscioni che compaiono sempre più frequentemente nei nostri stadi, gli striscioni della vergogna, li abbiamo ribattezzati, ne parleremo con il numero 1 dell'Osservatorio del Viminale. Potete però scriverci anche al 349 238 6666 oppure su Twitter @CapuanoGio, come ha fatto Simone, per parlare di Formula 1. E a proposito di quanto detto prima da Ivan Capelli, scrive: sono 3 anni che Alonso corre con una macchina inferiore a tutte quelle di prima fascia. Sottoscrivo, la Ferrari, e l'ho detto Ivan Capelli, non può permettersi per il 4º anno consecutivo di dargli una macchina non competitiva. Scriveteci anche su Facebook a tempo di sport trattino Radio 24. Saluto Graziano Cesari. Ciao Graziano. Ciao, buongiorno. Allora mi lancio, direi che questa domenica è andata bene dal punto di vista degli arbitri. Insomma, togliendo il posticino, l'anticipo di venerdì, direi che sì. Sì, difatti parlavo di domenica, non di giornata complessiva. No, però mi sembra che, diciamo, la partita tra Napoli e Pescara, onestamente, partita talmente sbilanciata per il Napoli che anche quelle imperfezioni che ci sono state possono tranquillamente essere dimenticate. Mi sembra che nel pomeriggio, anche in gare abbastanza tese, ci sia stata qualche imperfezione, ma nulla in confronto a quanto visto nelle ultime settimane. Sì, assolutamente sì, si riferisce a Siena Roma abitata da Mazzolini e a Inter Palermo abitata da Bergonzi, ed è assolutamente perfetta le partite di questi due direttori di gara. C'è stato pochissimo in questa domenica. Assolutamente, beh, allora dai, partiamo proprio da Inter Palermo 1-0, gara decisa dall'autorete di Garcia al 28° del secondo tempo. Io ho il taccuino vuoto. Mi sono solamente chiesto perché ha ammonito Barreto. Era il 20° del primo tempo, devo dire che è un fallo che forse meritava un richiamo magari solenne, anche di quelli un pochettino duri, ma l'ammonizione mi sembrava eccessiva. L'unica cosa che posso imputare a Bergonzi, pensa come sono preciso e Pignolo. Assolutamente, sottoscrivo. Lazio-Parma 2-1, arbitrava Guida, il gol del vantaggio della Lazio, 25° del primo tempo di Biava. C'è da ragionare sulla posizione di Biava e Close in mezzo all'area di rigore, ma mi sembra regolare. Ma guarda, io gli contesterei un fallo di mano di Biava. Perché noi in questa azione molto molto confusa, per questi rimpalli tra Siani e Biava, probabilmente c'è un fallo di mano di Biava con la mano destra che riesce ad ammorbidire il pallone. Volontario o no, questo lascia stabilire il direttore di gara. Però sono sicuro che lui in mezzo a questo traffico non ha assolutamente visto questo fallo di mano. Sì, c'era grandissima confusione. Se posso spezzare una lancia a favore di Guida, meno male che c'è un arbitro che non fischia il fallo di confusione quando non capisce cosa sta succedendo. Credo che anche questo sia indice di personalità, perché poi spesso li critichiamo quando interrompono un'azione semplicemente perché è difficile fare chiarezza su quanto accade. Assolutamente sì, significa carisma, significa precisione, significa anche personalità e significa essere anche molto presenti nell'azione. Non c'è dubbio, sempre in Lazio-Parma, mezz'ora del primo tempo, ci sono delle proteste dei giocatori del Parma per un tocco di mano di Close su un colpo di testa di Parolo. Io direi che questo è calcio di rigore, questa mano molto larga, la mano destra di Close è larghissima rispetto al colpo di testa, e poi diciamo così che potrebbe aver interrotto, anzi sicuramente ha interrotto un passaggio tra compagni, perché c'era Zaccardo che poteva ricevere sul colpo di testa, quindi mi sembra un calcio di rigore. Non c'è dubbio, intanto sentiamo Gasperini, Sky Sport. Decisiva, però dopo la vittoria col Catania era importante fare punti anche in trasferta, ci siamo andati molto vicino e sul campo anche dell'Inter, e rimane la consapevolezza, insomma, di essere più solidi, di essere più concreti. Peccato, adesso dobbiamo pensare alla prossima. Oggi si è sentito un po' l'assenza di un terminale davanti, perché siete riusciti a fare molto bene la fase difensiva, anche giocando molto sulla fascia sinistra, cambiando degli uomini, prima Brienza, poi Ilicic, la posizione di Pisano che doveva Palermo stringere, che ha visto davvero poco la porta oggi a San Siro, non meritava di perdere, però ha creato anche poco. Sentiamo la risposta di Gasperini. Ordine, però abbiamo avuto alcune situazioni importanti che poi magari non risaltano perché non sono state create poi l'occasione da gol, però con degli spazi che l'ultimo passaggio poteva creare veramente, sia nel secondo tempo che anche qualcuno nel primo tempo, ma soprattutto nel secondo c'erano gli spazi per far male all'Inter. Era questa la partita che dovevamo fare, attenti nella fase difensiva, buon possesso palla che impediva all'Inter di avere superiorità, e poi trovare la giocata giusta che purtroppo ci è mancata. E questo dalla è mattina... Gasperini a San Siro. Allora, con Graziano Cesare invece torniamo alla moviola di Lazio-Parma. All'inizio della ripresa viene ammonito Radu per simulazione, va giù, protesta, per lui cartellino giallo da guida. Sì, direi che più che una simulazione, forse una simulazione per proteste. Io sono molto, aspetterei molto ad ammonire per simulazione, perché credo che un contatto ci possa anche essere, sempre comunque, se non c'è proprio una caduta in cui si vede la platealità della volontà di questo calciatore di creare un danno al pubblico, alla squadra avversaria e all'arbitro. Per chiudere all'Olimpico, 21esimo del secondo tempo, il calcio di rigore che poi su ribattuta di Mirante Belfodil realizza ed è la rete del 2-1, rigore per un atterramento di Sansone da parte di Mauri. Su questo nessun dubbio, assolutamente, mi sembra proprio calcio di rigore, credo che Guida abbia agito benissimo in questa situazione. Assolutamente. Udinese-Cagliari, forse da verificare soltanto la posizione di Pasquale in l'azione della rete del 4-1, però siamo davvero ai dettagli. Siamo veramente ai dettagli, ma mi sembra che la posizione sia assolutamente regolare, anzi devo fare i complimenti all'assistente Preti in questa situazione, che è stato molto molto bravo, era perfettamente allineato, quindi anche, ricordiamo sempre, la regola indicativa, quella principale, è nel dubbio non segnalare. Ecco, nel dubbio tenere giù la bandierina, veniamo da un anticipo, quello di venerdì, dove il Catania si è molto lamentato sul peso di quelle bandierine. Esiste secondo te, io credo che la risposta sincera sia sì, esiste sudditanza anche tra chi deve poi decidere in una frazione di secondo su qualcosa che è al limite dell'umano come il fuorigioco? Io credo proprio di sì, assolutamente, non posso essere che altro sincero in questa risposta. Ti devo dire che però il fuorigioco di Catania, il gol di Esciarabi in fuorigioco è un clamoroso errore dell'assistente, perché il campo visivo aperto, la concentrazione deve essere sul pallone, è talmente vicino il pallone con la posizione di Esciarabi che mi sembra quasi impossibile poter sbagliare una situazione di questo gioco. Sì, c'è un errore proprio di allineamento di un paio di metri. È un peccato che in questo caso non siano stati aiutati poi dal giudice di porta. A Catania un giudice di porta, Rizzoli, aveva dato il via contro la Juventus al pasticcio del gol poi annullato a Berghesio. In questo caso probabilmente il richiamo del giudice di porta al tocco di Robinho in mezzo all'area di rigore avrebbe forse, credo, messo la pulce nell'orecchio, aiutato la terna, o meglio i sei uomini, a non sbagliare quella decisione. Sì, ma l'arbitro di porta in questo caso si chiamava Velotto, che è un arbitro di Serie B, che è bravo, non è così importante come Orsato, quindi lì esiste anche un concetto di sudditanza psicologica tra l'arbitro di porta e l'arbitro centrale. Sì, non c'è dubbio. Bologna-Atalanta 2-1, il 22esimo del primo tempo, annullata una rete per colpo di testa di Manfredini, sugli sviluppi di un calcio di punizione decide l'assistente Nicolai. Direi perfetto, è una posizione preesistente di fuorigioco, Manfredini era ben oltre la linea difensiva del Bologna, quindi assolutamente da assolvere l'assistente per la decisione. Sì, direi assolutamente di sì. Graziano, ci fermiamo, abbiamo un minuto di traffico, poi torniamo. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure chiocciola Capuano Gio su Twitter, a tempo di sport trattino radio 24 su Facebook. Torniamo con la moviola, Genoa-Chievo 2-4, e ci sono almeno tre episodi da analizzare. Intanto il calcio di rigore al quarto d'ora del primo tempo, quello che poi con Paloschi porta il Chievo in vantaggio, c'è un intervento di Sampirisi su Atemai. Devo dire che questo bacio sinistro va ad agganciare Atemai, è calcio di rigore, Sampirisi aveva rischiato domenica scorsa per lo stesso episodio con Bonaventura, non concesso dal direttore di gara. Mi sembra assolutamente giusta la decisione di Tagliavento di concedere il calcio di rigore e di ammonire il difensore del Genoa. E poi al 22esimo, sull'azione del raddoppio del Chievo, ancora con Paloschi, da verificare la posizione di partenza del giocatore. C'è però di nuovo Sampirisi, purtroppo per lui, che tiene in gioco Paloschi, quindi la posizione è perfettamente regolare, capolavoro dell'assistente La Rocca. Assolutamente. Nella ripresa, al settimo minuto, siamo sul 3-1 per il Chievo, ci sono le proteste dei veronesi per un fallo di mano di Granquist in area di rigore per Tagliavento. Non è calcio di rigore, io credo che in questo Tagliavento abbia assolutamente sbagliato. Ha sbagliato sì, ma purtroppo c'era il corpo di Granquist che non faceva vedere. Vedere quello che cosa, che il pallone ha colpito il gomito sinistro di Gantis. In questo caso era difficilissimo per il direttore di gara, che era verticale rispetto alla posizione di Gantis, poter decidere. L'arbitro di porta questo caso Manganiello non ha dato assolutamente una mano, e allora è inevitabile l'errore. Sì, e poi a proposito di falli di confusione, non è successo nulla, però proprio nel finale c'è un fallo di confusione in area del Chievo e Tagliavento preferisce interrompere l'azione, azione molto confusa, pallone che danza anche sulla linea di porta. Ho avuto però l'impressione che il direttore di gara abbia davvero deciso di evitare ogni problema fermando l'azione. È vero, è proprio ragione, ho avuto questa impressione, interrompendo costringeva tutti a tenere lì il pallone, quindi cercava di liberarsi da quello che era una mischia furibonda con questo pallone che continuava a danzare nei pressi dell'area di porta del Chievo. Assolutamente. Ci manca Siena-Roma, vittoria esterna della Roma in rimonta per 3-1, arbitrava Mazzoleni. Ci sono un po' di episodi da analizzare. Iniziamo al sesto del primo tempo. Le proteste della Roma per un presunto tocco di mano in area del Siena. No, ti devo dire assolutamente no, non c'è tocco di mano. Il tocco di mano, secondo me, se esiste questo tocco di mano, è assolutamente involontario, quindi non punibile. Poi pochi minuti più tardi e siamo al decimo e va giù Rubin del Siena, il contatto è con Pjanic, Mazzoleni non lo ammonisce ma lo redarguisce e non concede il calcio di rigore. E fa benissimo, perché su segnalazione dell'abito di porta Celi si confrontano, devo dire che questa è un'azione assolutamente di gioco, due che cercano di andare a prendere posizione, a contrastarsi sul pallone, ma non vedo nessuna azione scorretta. Sì, chiamata difficile e per questo preziosa, perché ti dico la verità, visto il replay da dietro la porta, qualche sospetto di un aggancio di Pjanic su Rubin poteva anche venire, quella era anche la prospettiva del giudice di porta, quindi esatto. È assolutamente apprezzabile che la collaborazione fra Mazzoleni e Celi abbia portato in questo caso alla decisione corretta. Sì, assolutamente sì, devo dire che questa è stata maturata la decisione con una collaborazione che è stata fattiva, è stata precisa ed è stata soprattutto importante per il momento decisivo della partita. Ricordiamo, il risultato era sullo 0-0. Sì, il risultato era sullo 0-0, tra l'altro poco più tardi è arrivato il gol del vantaggio del Siena. A Sky Sport c'è Zeman che è arrivato alla terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime 5 partite. In pratica nell'ultimo mese e mezzo ha perso soltanto il derby contro la Lazio. Sentiamo Zeman. La partita, ha cercato di vincere, c'è riuscita, magari il primo tempo eravamo un po' troppo lenti per riuscire a entrare, anche se abbiamo creato pericoli secondo tempo e specialmente alla fine. Beh, è stato un assedio nel secondo tempo. Forse stiamo meglio fisicamente e abbiamo approfittato di qualche spazio in più. Paola Sogna. Volevo chiedere Ilaria a Zeman, che spesso è insoddisfatto anche dopo le vittorie, per esempio a Pescara non era soddisfattissimo, se questa vittoria dopo questo secondo tempo in cui il Siena non è mai uscito dalla propria metà campo, in cui la Roma ha dato momenti di spettacolo, è una vittoria che ha un po' un sapore diverso dal punto di vista della qualità del gioco. Beh, il sapore è diverso perché abbiamo fatto meglio rispetto a Pescara, io penso che continuo a dire, lo dico ogni settimana che mi vedete qua, per me questa squadra può giocare bene a calcio, può riuscire a fare risultati, e bisogna trovare continuità e concentrazione durante 90 minuti. Questo Zeman, allora con Graziano la finiamo la moviola di questa giornata. C'è la rete del pareggio della Roma, 18° del secondo tempo di Mattia Destro, da verificare, ma mi sembra che Destro parta dietro la linea del pallone. Soprattutto dietro la linea del pallone quando riceve il passaggio da un compagno, ma è anche in posizione regolare quando è l'inizio dell'azione, c'è il cross che poi tramuterà in rete, quindi due posizioni assolutamente regolari da parte dell'attaccante della Roma. E poi l'ultimo episodio è pochi istanti prima del gol del 3-1 della Roma, perché il Siena protesta molto per una sbracciata all'interno dell'area di rigore della Roma, poi l'azione riparte, c'è il contropiede, il passaggio di Pjanic per Destro che segna la rete del 3-1. In questo caso devo dire che Marquinhos è in vantaggio rispetto all'attaccante del Siena, certamente è un tentativo di non permettere all'attaccante di andare sul pallone, ma io non vedo un'azione così regolare, così scorretta che deve meritare il calcio di rigore. Sì, usa le maniere un po' rudi, diciamo. Esatto. Paradossalmente rischia essendo in anticipo, perché certo. È un contatto su cui si può anche fischiare un calcio di rigore, poi magari si discute per una settimana, però il rigore te lo possono anche dare. Assolutamente sì, ci potrebbe stare il calcio di rigore, ti ripeto, forse l'attaccante del Siena doveva essere molto più veloce, più reattivo, doveva accelerare la sua corsa, a quel punto sarebbe stato calcio di rigore. Ecco, in Napoli-Pescara 5-1 c'è un calcio di rigore, 12° del secondo tempo, Napoli avanti per 2-1, c'è un intervento di Bocchetti su Cavani, il rigore mi sembra netto, anzi è netto, volevo però chiederti se è giustificato il cartellino rosso diretto per Bocchetti, in no. fondo si trovava in mezzo a 2-3 uomini della difesa. Perfetto, c'era la possibilità secondo me di intervenire, poi ti devo dire la sincera verità, la chiara occasione della rete non si manifestava in tutta la sua intenzione, era anche laterale rispetto alla porta di difesa da Perin, mi sembra il giallo un provvedimento più equo. E poi sul 4-1 c'è una richiesta di calcio di rigore da parte del Pescara, va giù Bjarnason in un contatto con Cannavaro. Direi assolutamente netto, è il ginocchio destro di Cannavaro che va sulla gamba sinistra di Abelson, l'arbitro di porta in questo caso non interviene sbagliando e quindi la decisione è errata. La curiosità è che l'azione riparte, il Napoli va in contropiede, Insigne è solo davanti al portiere, l'arbitro fischia fermando l'azione per un fallo precedente di un giocatore del Pescara e poi chiede scusa perché si accorge che sarebbe stato più opportuno concedere il vantaggio. Assolutamente sì, direi che la munizione poteva attendere assolutamente, è un'occasione meravigliosa per concedere una norma del vantaggio, per uso alzare le mani segno di scusa nei confronti San Paolo, ma gli arbitri di classe non dovrebbero commettere questi errori. Non parliamo, Graziano, del derby di ieri sera. Rocchi ha forse sbagliato un paio di scelte, però io credo che quando un arbitro con quella personalità azzecca la scelta decisiva, che poi è quella che ha cambiato la partita ed è la scelta dell'espulsione di Glick, e lo fa senza tentennare, è un arbitro che va promosso. E in fondo ho letto oggi le pagelle, non ho visto insufficienze per Rocchi. La tua? No, assolutamente. No, guarda, la mia è una sufficienza altissima, ci sto parlando di un 6,5, 6 al 7, perché Rocchi ha dimostrato di avere veramente carisma e la personalità per dirigere queste grandi partite, ha ripetuto il grande derby che aveva abitato a Roma, fatto benissimo sull'espulsione di Glick, non ho nulla da dire perché è un provvedimento talmente evidente che Rocchi lo ha preso senza bisogno della cooperazione di nessuno, in piena autonomia, e questo mi fa pensare alla concentrazione di Rocchi in questa partita. Guarda, a me la decisione e la velocità con cui ha tirato fuori il cartellino rosso ricordano la decisione e la velocità con cui ha espulso De Rossi nel derby di Roma, poi tutti hanno detto che era da espulsione, però farlo con quella perentorietà secondo me dà proprio il polso, il segnale anche ai giocatori in campo, alla gente sulle tribune, di un arbitro che è pienamente padrone della partita. Esatto, molto sicuro di sé, privo di ogni stato di ansia e quindi perfettamente aderente a quello che è lo spirito della gara. L'approccio è stato giusto, la continuazione della partita, al di là degli inevitabili errori, ma sono errori assolutamente veniali e comprensibili, Rocchi ha diretto una grande partita. Grazie a Cesari. Grazie a voi. Un abbraccio e appuntamento settimana prossima. C'è ancora Zeman che sta parlando a Sky, poi dovrebbe arrivare Stramaccioni. Dario Ricci da San Siro. Dario. A proposito di arbitri, Giovanni, mi viene da dire che sarebbe il caso che ritrovarne qualcuno che adottasse tutti i poteri che ha a disposizione e interrompesse le partite quando vengono esposti striscioni ingiuriosi e cori altrettanto indecorosi. Anche oggi a San Siro, spettacolo indegno, con cori contro la memoria dell'ispettore Raciti e contro i carabinieri, Bergonzi un gesto memorabile avrebbe potuto farlo. Detto questo, scusami, perché la cosa ci interessa, facciamo cronaca. Sì, sì, sì. Da parte di chi? Oggi c'erano i tifosi del Palermo, c'erano i tifosi dell'Inter a San Siro. No, assolutamente è stata la curva interista che prima ha scaldato l'atmosfera, diciamo così, con un coro a sostegno del calciatore arcidiacono. La vicenda è nota, che pochi un paio di settimane fa ha esposto una maglietta a sostegno di uno dei due ultras condannati in via definitiva per l'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, poi cori sempre contro i carabinieri, poi cori contro il Verona. L'indirizzo è chiaro, l'obiettivo è la prossima partita di Coppa Italia, che vedrà di fronte proprio nerazzurri e veronesi, visto che è prerogativa dell'arbitro poter interrompere la partita in questo contesto. Giovanni, sarebbe opportuno che sì, qualcuno ritornasse, assolutamente, a farlo. Assolutamente sarebbe opportuno, e comunque ne parleremo dopo le 18 della questione striscione, di quanto sta accadendo in queste domeniche della vergogna all'interno dei nostri stadi. Ti ringrazio Dario, l'ultimo flash, poi torniamo a San Siro ovviamente anche con i tuoi ospiti, l'ultimo flash da Sky Sport per Zeman. Mi è piaciuto anche primo per giocata, e quelle due dita prima era perché dovevamo giocare sul secondo, e quindi si è avverato poi. Va bene, ok. Grazie Zeman. Allora, questo era Zeman. Noi ci fermiamo, pubblicità e meteo, e quando torniamo apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. Pubblicità e meteo, vi ricordo i contatti: 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi su Facebook A Tempo di Sport trattino Radio 24, o ancora su Twitter, l'account è @ Capuano Gio. A Tempo di Sport. Subito a San Siro Sky Sport c'è Stramaccioni. Abbia, diciamo, secondo me egregiamente coperto quel ruolo. Ilaria. Luca Marchegiani. Ciao Andrea, no, ciao. Mi allaccio al discorso delle condizioni Milito. Ha detto Stramaccioni che nel primo tempo l'Inter ha fatto meglio rispetto alla ripresa, poi è un po' calata, ma il gol ha aiutato, e ha detto anche è una vittoria che ci voleva, non siamo al top, ma è stata una buona prestazione di continuità nel fare la partita. Sentiamo ancora Stramaccioni. L'ho vista così, nel senso il mio attacco era troppo schiacciato sulla linea dei 5 del Palermo. Secondo me il Palermo, quando si abbassa con tutti i giocatori, ti lascia pochissimo spazio centralmente, e secondo me era il classico caso in cui per attaccare serviva un giocatore più lontano dall'area di rigore, fermo restando che ovviamente avessi già Palacio e Coutinho in campo. Quindi Guarin mi ha dato un altro scarico, palla sui piedi fuori, lontano sui 25 metri, che poi era quello che ti dà il possesso. Poi ovvio che Freddy ha anche caratteristiche di uno contro uno, appena entrato ha subito creato superiorità nella parte destra insieme a Nagatomo, e fortuna che è andata bene. Questo Stramaccioni, scrive un amico al 349 238 6666: come mai non avete parlato dello striscione contro Pessotto settimana scorsa? Beh, Juventus-Milan si è giocata domenica sera, noi con A Tempo di Sport siamo in onda fino alle 19 e comunque ne parliamo tranquillamente, ne parliamo questa settimana e ne parleremo dopo le 18 con il numero 1 dell'osservatore del Viminale, Massucci. Intanto torno a San Siro da Dario Ricci. Dario, un saluto da San Siro, Giovanni. So che sei con un ospite, però prima di coinvolgerlo apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. La Juventus chiama, Napoli e Inter rispondono, ma mentre Mazzarri può sorridere, a San Siro Stramaccioni presenta una delle più brutte Inter della stagione. Impossibile che Sneijder non serva in queste condizioni. Moratti, alla vigilia dell'incontro col procuratore, garantisce che le porte non sono chiuse, ma si va verso il divorzio. E poi, in attesa della Fiorentina, gode la capitale, vincono Roma e Lazio, scalano posizioni in classifica. Per Zeman il terzo successo consecutivo, non accadeva da 11 mesi. In coda piange il Genoa, la cura del Neri non funziona, 7 KO in 8 gare. E poi la vergogna dello striscione che offende la memoria di Superga. Dopo i deliri su Pessotto, quelli su Speziale Innocente, anche oggi a San Siro il calcio italiano non riesce a fare pulizia all'interno dei suoi stadi. Ne parliamo dopo le 18 con il numero 1 dell'Osservatorio del Viminale. Dario, allora torniamo a San Siro. Mi sembra non una buona Inter, anche se Stramaccioni la sta difendendo e ha detto meglio nel primo tempo che nella ripresa. Sì, direi un Inter anche deludente, al di là delle parole della difesa d'ufficio del suo tecnico. Ne parliamo col nostro ospite Marco Ansaldo, reduce, inviato della stampa, reduce dal derby, oggi a San Siro, già in partenza per Donetsk, quindi insomma ospite quanto mai qualificato. Marco, oggi un Inter che ha fatto vedere davvero pochino, difficile immaginarla indipendente anche da un giocatore come Sneijder, no? Tanto per entrare subito in tema. Beh, probabilmente non è che Sneijder possa, soprattutto lo Sneijder delle ultime due stagioni, quelle dopo il triplete, possa restituire all'Inter uno smalto straordinario, però qualcosa di meglio rispetto all'Inter di adesso sicuramente può fare. Cioè, una squadra che non ha una regia, una squadra che va avanti un po' così a tentoni, almeno che abbia lì davanti qualcuno in grado di costruire una palla gol, di avere un'intuizione particolare. Può essere questo qualcuno, può essere Cassano, ma lo può essere anche Sneijder. Ecco, paradossale proprio l'occasione dell'autogol di Garcia, perché cross di Ranocchia e il primo pronto a intervenire alle spalle del difensore del centro del Palermo era Nagatomo, no? Insomma, un po' di confusione forse. Ma questa è una squadra che dico sta giocando veramente male. L'Inter sta giocando male, è in una fase involutiva. La mia sensazione è che l'Inter sia una squadra che debba giocare appunto come con la Juve sull'avversario, allora poi emerge perché ha anche dei giocatori di qualità e probabilmente contro le grandi squadre tipo con la Juve fa anche la partita della stagione in qualche modo. Qui invece quando deve attaccare la vedo una squadra con dei grossi problemi di costruzione di gioco, per sua fortuna ha una difesa che regge molto bene e quindi prende pochi rischi. Sì, mi sembra Dario che sia un Inter che arriva al big match di domenica prossima con il Napoli, che è la sfida di fatto tra le due sfidanti alla Juventus, arrivi però forse nel momento peggiore della stagione. Di positivo per Stramaccioni c'è che tornerà Cassano, scontata la squalifica. Di negativo c'è che forse per la prima volta nell'arco di questo inizio di campionato sembra che Stramaccioni e l'Inter abbiano un po' perso il filo della crescita, quel filo che in fondo si intravedeva sin dal mese di agosto. Eh sì, considerazioni che giro a Marco Ansaldo. Marco, Inter-Napoli, ritorna Cassano, ma forse nel momento più difficile per i nerazzurri, che sembrano aver smarrito la retta via iniziale. Che partita t'aspetti? Che Inter t'aspetti? Dico, se l'Inter è una squadra che trova l'ispirazione contro le squadre migliori, contro le avversarie migliori, può essere anche una buona Inter. Io onestamente Cassano, per quanto stia giocando forse la miglior stagione della sua carriera, lo considero sempre un giocatore ancora che non ha mai espresso nulla, cioè è arrivato a 30 anni e stiamo ancora a parlare di un giocatore come se dovesse dimostrare qualcosa, quindi vuol dire che grandissime cose non le ha mai fatte vedere nella carriera, va a sprazzi, ha del talento, però poi dopo a un certo punto gli si spegne la luce, non si vede più, però può darsi che con l'Inter questo funzioni. Il Napoli è in buon momento, mi sembra un momento di nuovo di entusiasmo. Il Napoli è una di quelle squadre, di quelle società, direi di una di quelle piazze che va sempre un po' avanti a strappi, cioè grandi momenti di furore, di entusiasmo, accompagnati per momenti di depressione come dopo la sconfitta con la Juve in cui è uscito e si è detto di tutto. Il Napoli è meglio, il Napoli ha un gioco per fare gol, l'Inter mi sembra che questo gioco non ce l'abbia e ci arrivi sempre in maniera un po' casuale oppure giocando sugli avversari, ecco, questa è la cosa importante. Ti rubo ancora un minuto, Marco, sull'altro tema di giornata, San Siro come lo Juventus Stadium, come tanti altri stati in queste settimane, con cori e striscioni vergognosi, beh, difficile trovare una soluzione, ma servono misure immediate, cosa si può fare? Onestamente non lo so, perché credo che anche multare le società poi alla fine è un rimedio che si è visto non ha funzionato, perché i giochi tifosi se ne fregano altamente dei costi economici delle società, salvo poi lamentarsi che non ci sono i soldi per comprare i giocatori. E quindi non so che cosa si possa fare. Certo, l'unica cosa che non si può fare è far finta di non vedere. Mi ha stupito molto nell'ultima giornata, nelle sanzioni combinate dal giudice sportivo dell'ultima giornata, non trovare ad esempio una sola sanzione su questi striscioni a favore di questo giocatore arcidiacono, la storia di cui ormai si parla un po' tutti, cioè a Milano, in Milan-Juve e a Parma ho visto di persona degli striscioni come li ho visti oggi con l'Inter e non è stata combinata alcuna multa, mi dicono, perché evidentemente gli arbitri non l'avevano segnalata. Così come mi aveva lasciato molto perplesso il fatto che a Milan-Juventus lo striscione veramente indecoroso nei confronti di Pessotto, così come ieri lo striscione degli tifosi della Juve, fosse passato così con una multa abbastanza blanda rispetto ad altro. Quindi io credo che insomma in qualche modo ci vada un minimo di pugno di ferro, poi non so quanto questo possa fermare il fenomeno, perché come si diceva la madre degli idioti è sempre incinta, in Italia mi sembra sia un periodo in cui ci sono parecchie nascite da questo punto di vista. Purtroppo ai noi non c'è dubbio, Dario. Grazie, assolutamente. Grazie al tuo ospite, rimani ancora lì un minuto, Dario, sentiamo ancora Stramaccioni a Sky Sport. No, è finito. Questo infatti è finito, è finito Stramaccioni. A proposito di come però il tema degli striscioni, di quanto succede nei nostri stadi sia difficile poi da interpretare per le persone a casa, due sms arrivati al 349 238 6666. Il primo ci fa i complimenti, ma non l'ha neanche sfiorata l'idea che lo striscione striscione di ieri, scusate, che lo striscione fosse opera dei tifosi dell'Inter. Io onestamente non capisco a che cosa si riferisca, probabilmente a quello che è accaduto questo pomeriggio, ma noi più che dire che lo striscione è opera dei tifosi dell'Inter non so che cosa possiamo fare. E invece un altro che ci accusa di essere servi della Fiat: perché non parlate dello striscione della curva juventina contro i caduti di Superga? È un'ora che diciamo che lo facciamo, lo faremo, lo stiamo facendo, però portiamo pazienza, Dario. Rapidamente Donadoni invece, Lazio Parma, Sky Sport. Forse per certi versi in tanti momenti della gara sembrava forse più il Parma a giocare in casa che in trasferta, e quindi a dimostrazione che ce la possiamo veramente giocare tranquillamente contro qualsiasi avversario. Abbiamo subito due gol in maniera così molto, molto casuale, ingenua, perché in fondo la Lazio nel primo tempo ha fatto veramente mezza azione, però sono stati bravi, e noi ci manca ancora quel pizzico per riuscire a fare un risultato importante che soprattutto oggi avremmo meritato. C'è un episodio. Questo che Donadoni, sentiamo adesso l'analisi. Parma ha reclamato un calcio di rigore sull'episodio per un del Parma. Fallo, un presunto fallo di mano di Klose. Abbiamo visto la panchina molto arrabbiata. Fallo di mano abbastanza netto, ha detto Graziano Cesari prima ai nostri microfoni, poteva tranquillamente portare alla concessione del calcio di rigore. Donadoni. No, io non dico nulla, come al solito. Quindi voi vedete le immagini, avete il vostro metro di valutazione e quindi fate le vostre considerazioni. Io so che alla fine della partita l'abbiamo persa 2-1 e questo non, questo episodio non mi dà niente di più. Questo prima Donadoni. Dario, per chiudere da San Siro, stramaccioni su Snyder pochi minuti fa. Ha detto: stiamo attenti a parlare di mobbing, io scelgo sempre in linea con la società, Snyder sa tutto, ci parliamo tutti i giorni, domani le parti si incontrano, speriamo vada bene, ma la mia scelta è tecnica, ho preferito altri, Snyder non lo convoco perché è una scelta mia e non del presidente. Detto che questo Snyder comunque servirebbe a questa Inter, soprattutto a quella vista questo pomeriggio contro il Palermo, volevo capire da te che aria si respira in attesa di questo incontro, quello di domani, che dovrebbe chiarire la situazione se non sbloccarla. Beh, dal punto di vista tecnico questo Snyder, come sottolinei giustamente, farebbe comunque comodo, e certo è paradossale la posizione di Stramaccioni, perché pochi giorni fa in conferenza stampa si è arrampicato sugli specchi, no? Per giustificare questa scelta tecnica, adesso ci ha pensato bene, quantomeno la tempistica è casuale, perché fino a poche settimane fa non c'era questa esigenza tecnica, quindi è veramente paradossale quello che dice il tecnico nerazzurro, a dir poco. L'atmosfera è che non si arriverà poi a questo accordo, ma la sensazione diffusa è che nessuno, e questa è la posizione anche del Sindacato Mondiale dei Calciatori, nessuno ha costretto Snyder a firmare il contratto che ha firmato, è stata una proposta dell'Inter e quindi diventa difficile modificarlo unilateralmente o costringere un giocatore a modificarlo, ad accettare condizioni a lui imposte. Questo sì sarebbe mobbing, anche se poi parliamo di un campione plurimiliardario come quelli della Serie A, ma il termine tecnico è quello, che piaccia o non piaccia a Stramaccioni o Moratti. Va bene, grazie Dario Ricci. Grazie a voi. Grazie a Dario Ricci da San Siro. Abbiamo le notizie sul traffico, 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta come quella da Fabio da Pistoia, e ci andiamo subito dopo il traffico. A tempo di sport. Poco vince le partite. Questo ecco, è Pietro Leonardi, non l'abbiamo sentito, però Pietro Leonardi che si è presentato davanti ai microfoni di Sky per parlare ancora del fallo di mano di Klose, quindi anche questa domenica si porta la sua pena arbitrale. Xavier Iacobelli, buon pomeriggio. Buongiorno a voi, buon pomeriggio agli amici ascoltatori di Radio 24 da calciomercato.com. È anche questa domenica che pure abbiamo detto con Graziano Cesari in fondo è andata bene, per come era partita con l'anticipo di venerdì, purtroppo si porta la sua protesta arbitrale, protesta del Parma a Roma contro la Lazio. Xavier, però riapriamo insieme la prima pagina di A Tempo di Sport. Una prima pagina che dice che la Juventus chiama, Napoli e Inter rispondono, ma mentre Mazzarri può sorridere a San Siro, Stramaccioni ha presentato una delle più brutte Inter della stagione. Impossibile che questo Sneijder non serva all'Inter. Moratti, alla vigilia dell'incontro col procuratore, garantisce che le porte non sono chiuse, ma si va verso il divorzio. E poi, in attesa della Fiorentina, questa sera gode la capitale, vincono Roma e Lazio, scalano posizioni in classifica. Per Zeman, il terzo successo consecutivo non succedeva da 11 mesi. In coda piange il Genoa, la cura del Neri non funziona, 7 KO in 8 gare. E poi stiamo parlando della vergogna dello striscione che offende la memoria di Superga. Dopo i deliri su Pessotto, quelli su Speziale Innocente, Arcidiacono, anche questo pomeriggio a San Siro. Il calcio italiano non riesce a fare pulizia all'interno dei suoi stadi. Ne parliamo dopo le 18 con il numero 1 dell'Osservatorio del Viminale. Xavier, davvero l'unica cosa che non riusciamo a farci mancare sono questi striscioni, questi cori. Ieri uno spettacolo indecente a Torino, settimana scorsa a San Siro lo striscione su Pessotto, questo pomeriggio ci ha raccontato Dario Ricci da San Siro, ancora uno striscione della curva nord interista per Arcidiacono e Speziale. Davvero non riusciamo a esportare niente di diverso a livello di immagine. Ma è incredibile. Penso che questo sia l'unico aggettivo per esprimere tutto il ribrezzo che proviamo di fronte a questo florilegio di barbarie, perché non si può chiamare diversamente. Soprattutto la domanda che dobbiamo porci, ci vorrebbe uno psichiatra, da quali meandri reconditi dell'animo umano scaturiscano queste iniziative che sono un insulto all'intelligenza, sono un inno all'ignoranza, all'imbecillità. Non si possono nemmeno chiamare animali perché si offenderebbero gli animali, qui sono barbari. Ha ragione George Bernard Shaw: più conosco gli uomini più apprezzo gli animali. Non esiste nessun tipo di spiegazione logica, razionale, intelligibile a questa rincorsa a scavalcarsi a destra e a sinistra per inalberare lo striscione più volgare, più insultante, più incivile. La domanda che dobbiamo porci è: ma per esempio, per quanto accaduto ieri sera nell'unico stadio di proprietà del calcio italiano, è così difficile identificare gli autori di questo gesto? E poi i veri tifosi juventini che seguivano la partita nello stesso settore in cui è stato inalberato questo striscione insultante contro i caduti di Superga, avranno provato un botta stomaco, un conato di vomito, un moto di disgusto, oppure supinamente avranno accettato ciò che accadeva sotto i loro occhi? E allora, Xavier, lo dico anche agli amici da casa, dopo le 18, alle 18.05, con il responsabile dell'Osservatorio del Viminale, Roberto Massucci, e avremo anche qualche novità da raccontarvi riguardo proprio l'episodio di ieri sera, anche se il discorso poi va allargato perché non è un processo alla Juventus e ai suoi tifosi, stiamo parlando di quello che è successo oggi a San Siro, parliamo senza alcun problema, e con questo rispondo ai messaggi che arrivano al 349-238-6666, ad esempio dello striscione esposto dai tifosi del Milan, che ha offeso la memoria, in questo caso fortunatamente Pessotto è ancora vivo, insomma, ma la tragedia di un uomo di Pessotto con il tentativo di suicidio, quindi 18.05 con Massucci. Torniamo al campo invece, abbiamo titolato gode la capitale, zitto zitto Zeman, 3 vittorie consecutive, 4 nelle ultime 5, di fatto ha perso nell'ultimo mese e mezzo soltanto il derby, forse aveva ragione lui a dire che questa era una squadra competitiva. Aveva ragione quando sottolineava il fatto che, avendo rivoluzionato i ranghi della Roma, fosse necessario il tempo che ci vuole per costruire una squadra. Dopodiché Zeman nelle ultime 3 partite ci ha messo sicuramente anche del suo, perché essendo un uomo intelligente ha fatto tesoro degli errori commessi dalla sua difesa in svariate circostanze, che avevano visto la Roma addirittura passare in vantaggio, poi farsi rimontare e perdere partite che avrebbe dovuto vincere. Certamente 3 vittorie di fila per una squadra che intanto ha riscoperto destro, perché anche questo bravissimo attaccante aveva soltanto bisogno del tempo necessario per ambientarsi nella Roma, e non ha impegni internazionali suo malgrado. Questo significa che la Roma sarà sicuramente una delle protagoniste quando si decideranno le sorti dello scudetto, perché questi 9 punti nelle ultime 3 partite susseguenti il derby sono un formidabile propellente morale, non soltanto per la classifica, così come bisogna elogiare la Lazio. Sì, la Lazio che è certamente una delle squadre più belle di questo campionato. In tanti avevano sottovalutato Petkovic. Forse ha ragione Lotito quando dice che era inutile fare collezione di figurine durante il mercato estivo. La Lazio ha preso quello che serviva, aveva già una buona base. Io lo dico sinceramente, ritenevo che molto del risultato dell'ultima stagione venisse dalla saggezza di Reia. Evidentemente sono stati bravi Lotito e Tare ad andare a trovare in Svizzera un allenatore che quanto a saggezza non è secondo a Reia. Ah sì, io credo che nella stessa misura in cui in passato Lotito sia stato oggetto di critiche per alcune scelte di mercato risultate infelici, ripenso per esempio alla contrapposizione frontale con Pandev, con Ledesma per via dei rinnovi contrattuali, adesso c'è il caso di Akité. Questi sono altri discorsi, altri argomenti, però Lotito merita di essere elogiato perché quando fai una scelta giusta, qual è stata quella di Petkovic, il quale peraltro debuttante assoluto nel nostro calcio, si è presentato con una umiltà pari all'intelligenza e alla vasta preparazione culturale, oltre al fatto che essendo un poliglotta non abbia nessun tipo di problemi nel dialogo quotidiano con la multinazionale che ha a sua disposizione. Non c'è dubbio. Xavier, sentiamolo Petkovic, Sky Sport. Vincere contro un avversario che ha dimostrato anche oggi tutto a valore, squadra forte, squadra ben organizzata che ci ha messo secondo tempo un po' in difficoltà nel possesso palla, ma praticamente hanno creato in tutta la partita una occasione e mezzo. Sì, esce bene anche il Parma, mi sembra. Parma che, lo abbiamo letto oggi sui giornali, da quando è arrivato Donadoni viaggia da Champions League meglio soltanto del Parma. Stanno facendo Juventus e Napoli. Direi che la sconfitta di oggi non cancella nulla di questa bella impressione, Xavier. Sono d'accordo con te Giovanni, assolutamente, anche perché di fronte arrivano signora Lazio, ma l'insuccesso maturato all'Olimpico non scalpisce il giudizio altamente positivo sul lavoro di Donadoni, che è una squadra giovane, una squadra pimpante, non è partito certamente per vincere il campionato, essendo molto pragmatico l'ambiente parmigiano ed essendo abituati a non fare mai il passo più lungo della gamba, ma il Parma e gli elogi di Petkovic sono significativi, anche oggi ha dimostrato di essere una grande squadra che è inchinata al valore superiore della Lazio nella circostanza. Non c'è dubbio, grazie a Xavier Iacobelli. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Xavier Iacobelli, direttore di calciomercato.com. C'è Simone da Verona che ha chiamato l'800 24 00 24. Simone, buon pomeriggio. Buonasera a voi. Prego. Grazie per farmi intervenire. Volevo parlare circa le striscioni che vengono esposte negli stadi. Siccome direi che i tifosi entrano in quanto sono tifosi per le squadre di calcio, abbiamo inserito la tessera del tifoso in tutti gli stadi, sono presenti numerose telecamere. Quindi prima di tutto, a mio avviso, non dovrebbe essere difficile rintracciare le persone che sono proprio fisicamente il pedone e capire chi sono, secondo nome, cognome, indirizzo. Primo aspetto. Secondo aspetto, siccome questi vengono a che fare la squadra di calcio, io darei la responsabilità oggettiva anche alla squadra di calcio, quindi in questo caso con chiusura dello stadio o penalizzazione dei punti, perché la multa da 10-20 mila euro sono poca cosa. Allora, chiusura dello stadio per tutta la giornata e poi 4 punti di penalizzazione. In maniera tale per cui che la società di calcio siano incentivate a svolgere la loro funzione di controllo. Simone, la saluto perché il collegamento purtroppo non è perfetto, grazie comunque per aver chiamato. No, ma io sottoscrivo e ne parleremo anche con Roberto Massucci dell'Osservatorio del Viminale, ma del resto la legge lo dice già che sono le società responsabili del controllo degli striscioni che entrano negli stadi. Noi ci dobbiamo fermare, diamo spazio al GR, poi torniamo 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 2386666 per i messaggi. Torneremo proprio con l'intervista a Roberto Massucci, numero uno dell'Osservatorio del Viminale. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Intanto Gasperini a San Siro ha detto: Sneijder è un problema dell'Inter già da due stagioni, per la società l'olandese non è una risorsa ed è un problema già da 2 anni. Queste le parole di Gasperini. Noi però vogliamo parlare, ve lo abbiamo annunciato già dall'inizio di questo pomeriggio in diretta, della vicenda degli striscioni. Prendiamo spunto da quello che è successo ieri sera allo Juventus Stadium, lo striscione che infangava la memoria dei caduti della tragedia di Superga, ma poi oggi ce l'ho raccontato Dario Ricci a San Siro, ancora uno striscione speciale innocente e di solidarietà ad Arcidiacono, il calciatore del Cosenza che è stato squalificato per oltre un anno. E lo facciamo con Roberto Massucci, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Massucci, che è il portavoce dell'Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive, al quale so che all'estero, chiedo se ha avuto notizia, se ha visto comunque i giornali, quella che noi abbiamo ribattezzato la vergogna di Torino, e cioè l'ennesimo striscione, questa volta offensivo della memoria della tragedia di Superga, che ieri sera è stato esposto allo Juventus Stadium durante il derby. Non è purtroppo una novità, striscioni che si sono visti anche in passato in altri stadi e nelle scorse settimane con obiettivi diversi, si sono visti anche a San Siro e altrove. Sì, ovviamente evito ogni commento sullo striscione di Torino, perché il contenuto ovviamente si commenta da solo. È un fatto grave che purtroppo è già accaduto, come giustamente ricordava lei, anche da altri. Noi un po' di tempo fa abbiamo varato una normativa, una serie di regole per gli striscioni che impongono una sorta di meccanismo autorizzatorio che fa capo alle società sportive e che deve servire a verificare che non ci siano messaggi negativi o offensivi negli striscioni, che ci sia posto negli strati, che siano a prova d'incendio e quant'altro. Chi infrange queste regole crea delle situazioni di vergogna, come lei giustamente ricordava, anche di possibile pericolo, perché gli striscioni non sono controllati, non sono verificati, potrebbero essere ad esempio incendiabili. Io credo che ci sia un problema abbastanza diffuso sul quale stiamo lavorando e bisogna che un po' tutti mettano impegno in maniera decisa, che è la consapevolezza che per andare allo stadio occorre rispettare le regole. Mi pare che anche in chi si trova a commentare le regole che noi imponiamo ci sia un po' di leggerezza nel valutarle. La legalità e il rispetto delle regole sono una cosa troppo importante per essere liquidata così in chiacchierate spesso da bar. Mi riferisco a chi aveva bollato come liberticida, ad esempio, la normativa che disciplina l'ingresso degli striscioni negli stadi. C'è una responsabilità delle società. Usciamo dal caso Juventus di ieri sera, ma vale per il Milan, vale per gli striscioni su Speziale, tutte cose che si sono viste in queste settimane. Esiste una responsabilità delle società, se alle società è stato affidato questo filtro, questo controllo? Beh, conoscendo i percorsi di legalità della Juventus, escluderei che ci siano responsabilità nel caso di Torino. Può accadere che succeda anche questo. Certamente c'è una propensione ad infrangere le regole a quelli che si definiscono gruppi ultras, che poi sono soltanto delle frange di questi gruppi di tifosi, che un po' in tutti i settori rifiutano categoricamente il rispetto delle regole, ritenendo che l'essere ultra significa non rispettare le norme che disciplinano il corretto andare allo stadio. Certo, la gente si chiede, ma ce lo hanno anche chiesto scrivendo qui in trasmissione già da ieri sera tardi, quando quell'immagine si è vista, com'è possibile che striscioni di 30-40 metri entrino allo stadio dove alla gente normale non è consentito portare ad esempio un ombrello? Ecco, questa è una domanda a cui ovviamente bisogna dare una risposta. Ci sono tanti sistemi, a volte vengono portati a pezzi, a volte vengono portati dove gli stati non vengono gestiti in maniera adeguata prima della partita, eccetera, eccetera. Sicuramente ci sono degli accertamenti in corso, sicuramente si lavorerà per identificare chi ha esposto lo striscione e anche per capire come questo striscione è entrato. Le norme ci sono, le tecnologie anche, quindi vediamo di dare delle risposte a chi giustamente si pone queste domande. Quindi ad esempio nel caso dello Juventus Stadium, dove ci sono telecamere, dove c'è tutta una serie di controlli, perché l'impianto è nuovo e perché è un impianto di proprietà, dovrebbe essere più agevole andare a identificare i responsabili? Guardi, fino ad oggi è sempre stato così. Fino ad oggi tutti coloro che hanno commesso illegalità all'interno dello Juventus Stadium sono stati identificati. Quindi dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane l'identificazione. Vediamo. Per chiudere, dottor Massucci, purtroppo nelle scorse settimane Abbiamo verificato che poi il tariffario della giustizia sportiva su questi episodi è un tariffario abbastanza soft. Faccio un esempio: i 4.000 euro di multa al Milan per lo striscione di settimana scorsa su Pessotto. Esiste un problema culturale, cioè sarebbe da adeguare questo tariffario, perché significherebbe adeguare anche la percezione che il mondo del calcio dà a questi episodi? La giustizia sportiva, come sa, è un ordinamento che gode del principio cosiddetto dell'autonomia, per cui le valutazioni sono fatte in altre sedi. Io quello che posso dire è che con la Procura federale lavoriamo come da gomito e i nostri atti e le nostre informazioni confluiscono anche nei procedimenti proprio appunto del giudice sportivo, e questo serve anche a dare la giusta e corretta dimensione alle sanzioni che vengono combinate. Quindi questo vale anche quando su quei dispositivi si legge poi della fattiva collaborazione delle società. È un triangolo che riguarda anche voi. Sì, questo della fattiva collaborazione delle società è un aspetto importante sul quale noi peraltro abbiamo anche, come dire, invitato gli organi della giustizia sportiva a effettuare delle riforme che puntualmente sono state fatte. L'esimente serve a evitare che il meccanismo della multa diventi un meccanismo ricattatorio, quindi ti faccio pagare la multa se non ottengo, diciamo così, dei benefit, dei benefici e quant'altro. Le faccio un'ultima domanda, le chiedo una risposta breve e il più possibile sincera. Avete l'impressione dal vostro osservatorio che si sia interrotto quel flusso di rapporti fra le società e il mondo ultra? Perché da osservatore esterno i rapporti esistono, e come ancora sta settimana abbiamo visto le immagini degli ultra del Genoa al campo d'allenamento a restituire la famosa maglia, e stiamo parlando di una vicenda da cui è scaturito anche un processo penale. No, non abbiamo questa sensazione, anzi siamo certi che purtroppo questo tipo di rapporti continuano. La ringrazio, dottor Massucci. Prego, arrivederci. Grazie dunque a Roberto Massucci. C'è Roberto da Cosenza, Salvatore da Napoli, che hanno chiamato l'800 24 00 24. C'è del Neri a Sky Sport, ma noi ci fermiamo per il traffico. A tempo di sport. Insomma, avete sentito Massucci, non sono interrotti ancora i rapporti tra le società di calcio, i club e il mondo ultra. E poi sono in corso accertamenti, perché alla Juventus Stadium c'è la tecnologia sufficiente per identificare, e anche in fretta, gli autori dello striscione di ieri sera. Però il discorso è più largo. E allora, Roberto da Cosenza, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A voi. Io volevo intervenire sulla questione Snyder, però. Prego, non c'è problema. Allora, guardi, io volevo porvi una domanda per vedere, diciamo, il vostro, sentire più che altro il vostro punto di vista. Ecco, vi ricordate quando tale Blasi, giocatore della Juventus, ci fu una polemica? No, non ci fu una polemica, ci fu un processo che è cosa anche più grave di una polemica, un processo per violenza privata, era il processo Gea, e l'imputazione fu riservata a Luciano Moggi. Lei chiede se esistono analogie tra i due casi. La mia risposta è che non esistono analogie, però è evidente, ma in questa trasmissione lo stiamo dicendo da sabato scorso, che il comportamento dell'Inter è certamente poco corretto, poco chiaro, poco lineare nei confronti di Snyder. Prego, Roberto. No, quello che volevo dire io è che come mai allora la FIGC intervenne e questa volta non ha messo, per adesso non si è proprio esposta, ecco, in prima persona. Ecco. Sì, Roberto, io in realtà voglio dire, mi sembra di ricordare che allora la FIGC non intervenne. Il problema è che dopo è intervenuta una procura della Repubblica e c'è stato un processo. Questo non toglie che il mio augurio è che la situazione tra Snyder e l'Inter si chiarisca, se devono divorziare che divorzino, o altrimenti che Snyder torni a essere pienamente un giocatore dell'Inter. Trovo ridicolo, e mi sembra di averlo detto con chiarezza, l'atteggiamento anche di Stramaccioni, che mi sembra oggi sia riuscito a dire nella stessa frase due cose che non possono sposarsi, e cioè che è una scelta tecnica e che allo stesso tempo si augura che l'incontro di domani tra la società e il procuratore vada bene per poter recuperare Sneijder. Ecco, io credo che si debba dire con chiarezza che quello che viene fatto in questo momento a Sneijder magari non è mobbing, magari non è un ricatto, perché forse sono termini esagerati, però certamente è un comportamento che è difficile definire corretto. Intanto saluto Guido Vaciago, buonasera Guido. Buonasera a voi e a chi ci ascolta. Ecco, ci ascoltano anche Salvatore da Napoli e Daniele da Pisa, vogliono parlare di striscioni e allora sentiamoli insieme. Salvatore, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Io volevo fare una proposta per risolvere effettivamente questo problema degli ultras e degli striscioni. Secondo me, siccome le multe non servono assolutamente a nulla, secondo me basterebbe che le bandiere delle squadre, non so, un Del Piero per la Juve, non so, Cavani per il Napoli, eccetera, si dissociassero innanzitutto da questi striscioni, dai fischi razzisti, eccetera, eccetera, ma soprattutto che chiamassero con, voglio dire, gli aggettivi che gli sono propri le persone che li espongono. Cioè, a pensarci bene, che cosa resta ad un ultras se perde la legittimazione che gli deriva proprio dal contatto diretto con i giocatori? Cioè, un ultras che in diretta nazionale viene, in un certo senso, ridicolizzato, no? Chiamato imbecille, eccetera, eccetera. Secondo me, ecco, è uno che... Secondo lei basterebbe, Salvatore? Guido, secondo te? Non basta, ma mi sembra un'ottima proposta. Non basta perché trovo che forse dietro questi tipi di atteggiamenti, detto questi striscioni, c'è un'ignoranza talmente profonda che forse non sentirebbe neanche il senso del ridicolo derivante dalla delegittimazione da parte del proprio idolo. Però mi sembra un'ottima proposta, perché comunque da qualche parte bisogna iniziare, qualche mattoncino bisogna metterlo, e chissà che qualcosa non riesca a graffiare di questa... Da questo muro che bisogna abbattere. Sì, ad esempio mi risulta che dello striscione davvero vergognoso su Pessotto di settimana scorsa ne abbiano parlato Gagliani e Agnelli in una telefonata, la telefonata riparatoria anche per le polemiche per l'errore arbitrale di Rizzoli. Mi sarebbe piaciuto che il Milan ne prendesse le distanze anche pubblicamente, però non è avvenuto e aspettiamo. Insomma, Daniele da Pisa, buonasera. Prego Daniele. Sì, buonasera. Senta, io più che gli striscioni vorrei dire una cosa sulle affermazioni offensive. Evidentemente a tutti i collaboratori. Sì, c'è qualche problema però di linea. Allora Daniele, proviamo a riagganciare la telefonata con lei. Guido, non c'è, è caduta anche la linea di Guido Vaciago. Allora adesso proviamo a recuperare, vediamo se c'è Pier da Casal Monferrato. Prego Pier. Sì, buonasera a tutti. Eccoci. Dica. Buonasera, grazie per l'opportunità. Senta, volevo dire, ogni tanto mi stupisco che sento che ci stupiamo ancora che lo stadio è un punto di aggregazione di persone ignoranti. Io lo dico, nell'85 ero all'Aisel, sono 27 anni. Niente, c'è qualche problema evidentemente con i telefoni. Allora andiamo con ordine. Intanto Cristiano da Cagliari che scrive al 349-238-6666, bisogna sciogliere i gruppi di tifo organizzato allo stadio, si deve andare come al cinema o teatro, ognuno per conto suo. E poi Luca da Grosseto, il giudice Tosele complice di chi espone certi striscioni, sono anni che nelle curve di Juventus, Roma e Lazio si espone di tutto ma non vengono mai presi provvedimenti. Vediamo se abbiamo recuperato la linea con Guido Vaciago. Guido. Sì, sono tornato, eccomi qua. Eccomi, sì, in realtà Massucci, lo hai sentito, credo, ci ha spiegato prima che le multe basse hanno una spiegazione che serve per uscire dalla logica del possibile ricatto del mondo ultra nei confronti delle società. So che stiamo dicendo delle cose che sembrano incredibili, in realtà esistono anche degli episodi, delle vicende recenti che hanno interessato anche grandi club che ci dicono che questo è un problema effettivo. Sì, siamo alla perversione massima, siamo al fatto che dello striscione esposto apposta per far prendere la multa alla società in casi di contestazione. La Juve ha avuto dei problemi simili qualche anno fa quando c'era la vecchia dirigenza e che era stata contestata abbastanza violentemente da una parte degli ultra. Ci addentriamo in una giungla in cui veramente anche le soluzioni a volte presentano delle controindicazioni, perché è talmente paradossale, talmente assurdo questo territorio nel quale ci muoviamo che ci si trova davanti anche a problemi di questo tipo. Io credo infatti che bisogna affrontare il problema dal punto di vista culturale. Io non so se riusciamo, se si riuscirà in qualche modo ad arginare l'imbecillità di queste persone che non hanno colori, perché mi rifiuto di credere che i tifosi juventini possano in qualche modo sentirsi d'accordo con lo striscione esposto ieri su Superga, e così come i milanisti parlando dello striscione di Pessotto, solo per citare gli ultimi due. Certo, come oggi credo che alla maggior parte della gente che era a San Siro non gliene fregava assolutamente nulla di arcidiacono, di speziale, e anzi al limite avevano un pensiero ben diverso da quello degli ultrà che hanno messo fuori quello striscione su Speziale e Raciti. Fino ad arrivare all'abisso del disgusto che sono stati gli striscioni su Morosini, i cori su Morosini più che gli striscioni. Ecco, allora io dico, dal punto di vista culturale, qual è il problema? Il problema è io spero che i papà che ieri erano allo stadio con dei bambini juventini che hanno visto quello striscione, tornati a casa gli abbiano raccontato che cos'era il Grande Torino, perché il problema è in una società che sta i cui valori morali sono in putrefazione, la storia è uno dei capisaldi a cui aggrapparsi per evitare il degrado totale, e anche nel nostro mondo del calcio, che è un micromondo, che è un mondo però che interessa milioni di persone, il rispetto della storia è fondamentale. Il Grande Torino è un valore per tutti gli italiani, è un motivo d'orgoglio per tutti gli sportivi italiani, indipendentemente dal fatto che siano del Torino o che siano della Juve, che siano di un'altra squadra. Per una persona di Torino, poi, oltretutto, è ancora più ragione di orgoglio il Grande Torino, non va insultato, non si insulta la storia, si deve avere rispetto per la storia, indipendentemente dai colori. Pessotto, io spero che i papà che erano allo stadio domenica scorsa e i cui figli milanisti hanno visto quello striscione a casa gli abbiano raccontato che persona è, che era e per fortuna è Pessotto, e quali sono i mostri che possono attaccare l'animo umano fino a portarli a fare dei gesti disperati come quello che fece Pessotto. Bisogna riuscire, partendo soprattutto dai bambini, partendo soprattutto dai giovani, a far capire che cose di questo genere, che gli striscioni sulle Isel sono un insulto alla storia, e la storia è una cosa sacra per tutti, perché la storia poi diventa di tutti, appartiene a una squadra nel momento della cronaca, ma poi è di tutti. Quindi secondo me il punto di vista deve essere soprattutto culturale, e poi l'identificazione. E poi l'identificazione, abbiamo sentito prima dire da Massucci che sono in corso accertamenti, fortunatamente dal punto di vista delle infrastrutture tecnologiche lo Juventus Stadium dovrebbe consentire in breve tempo di fare chiarezza sugli autori e i responsabili. Sì, non è una cosa bella il fatto che gli stadi stiano diventando una specie di Grande Fratello, ma non quello di Canale 5, quello di Orwell, in cui le telecamere possono riprendere e riconoscere ognuno di noi. Però se questa tecnologia per fortuna ci consente almeno di identificare gli idioti, ben venga questa tecnologia, ben venga il lavoro di identificazione, e ben venga il colpire in maniera capillare, in maniera scientifica i veri colpevoli, perché per esempio le chiusure delle curve, siano quelle del Milan, della Juventus, della Lazio, trovo che alla fine siano una punizione che è un po' troppo generalizzata. Non si può punire 10.000 persone quando magari sono 1.000 quelle da punire. Bisogna identificarle, cercare di arginarle e punirle. In Inghilterra ha funzionato in questo modo la lotta agli hooligans. Era un problema, a mio parere, diverso, culturalmente diverso, come culturalmente è diverso l'atteggiamento nei confronti del calcio degli inglesi. Però noi dobbiamo trovare la nostra via, e la nostra via deve essere forse quella appunto di prenderli uno per uno e iniziare una lenta ma inderogabile lotta nei confronti. Sì, e assolutamente persona, senza mai voltarsi indietro. Vediamo se Daniele da Pisa riusciamo a concludere la telefonata. Daniele, buonasera. Sì, buonasera, senta. Rieccoci. Dicevo, io volevo parlare più che altro più che degli striscioni per l'affermazione offensive che evidentemente sfugge, o quantomeno è sfuggita a me, perché leggendo non ho mai sentito riportare quelle parole indegna, quella affermazione indegna, che sia in Champions League che in Italia, la curva della Juventus ripropone immancabilmente quando rinvia il portiere avversario. non ho sentito fare una nota. Sì, cosa che è tradizione, Daniele, purtroppo in tanti stadi europei, non è soltanto patrimonio dei tifosi della Juventus o delle curve italiane. Io credo però, Guido, che qui si tratti di maleducazione, mentre certe aberrazioni che leggiamo sugli striscioni portano a qualcos'altro. Sì, trovo sempre sia abbastanza, come dire, capzioso fare la classifica dell'imbecillità, quindi in qualche modo concordo con l'indignazione dell'ascoltatore, però è vero, lì è un atto di maleducazione, l'altro è un atto offensivo nei confronti di della storia, quindi secondo me è molto più grave. Là si dicono delle cose che non si dovrebbero dire. Quando si accompagna il rinvio del portiere avversario con un insulto, si fa una cosa che non si dovrebbe fare, ma che, ripeto, sì, è una tradizione soprattutto del Nord Europa, della Mitteleuropa. E siccome non ci facciamo mancare nulla, l'abbiamo importata. Vogliamo definirlo colore, definiamolo colore, è un colore brutto comunque. Non c'è dubbio. Per chiudere, ieri sera non c'è stato soltanto lo striscione, non è andato davvero tutto liscio nel corso del derby. Noi abbiamo raccontato qualche settimana fa dei problemi al settore ospiti dopo Juventus-Napoli. Ieri sera, da quello che ho capito, è successo qualcosa di simile. Risulta che il settore ospite sia stato abbastanza devastato, che siano stati divelti 200 seggiolini da parte dei tifosi del Torino e che siano stati devastati i bagni, che sia stata tolta una porta antincendio, insomma non ci siamo fatti mancare nulla. No, assolutamente. A livello di inciviltà, un vero peccato, perché in una partita che tutto sommato era stata appassionante, che aveva proposto un tema romantico come il fatto di due giocatori che giocano i derby dalla seconda elementare, che segnano in un derby di Serie A, quindi comunque una bella storia di calcio che è stata rovinata da queste due cose. Gli imbecilli ci sono, ripeto, non bisogna scoraggiarsi, anche se leggendo certe cronache, arrivando a certi punti, lo scoramento è davvero l'unico sentimento. Bisogna iniziare questa lotta e portarla avanti in maniera lenta ma sicura, individuandoli uno per uno, evitando che questi mettano più piede in uno stadio. E ripeto, senza mai voltarsi indietro. Grazie a Guido Vacciago. Grazie a voi. Grazie Guido Vacciago, collega di Tutto Sport. C'è Alessandro da Sondrio che ha chiamato l'800 24 00 24. Chiedo 30 secondi di pazienza, c'è il traffico, poi ripartiamo da lì. A tempo di sport. Domenico su Twitter: perché non parlate degli striscioni di San Siro? Dario Ricci, di ritorno da San Siro, mi sembra che ne abbiamo parlato. Beh, direi di sì, Domenico. Adesso non si faccia riprendere col set in condotta subito in onda, ma insomma. Tra l'altro, Domenico. Scherziamo, ma insomma, Domenico. Domenico, le informo che siamo gli unici che ne hanno parlato, perché non mi sembra di aver visto ancora traccia da altre parti. Alessandro da Sondrio, buonasera. Buonasera. Prego. Sono tifoso interista di ritorno dallo stadio. No, volevo commentare la questione degli striscioni. Siamo qua. Allora, premetto che chi mette striscioni di questo tipo è stato un imbecille, chiamiamoli con le parole sì, che vanno dette. Poi però voglio fare una considerazione proprio nel caso specifico sulla Juventus. Come possiamo stupirci se i tifosi mettono striscioni imbecilli allo stadio, quando la società Juve scrive baggianate sulla maglietta? Sì, però Alessandro, a me sembra che una correlazione non ci sia. Quella della Juventus è una battaglia di politica sportiva. Io la critico, la ritengo criticabile, la ritengo sbagliata. La ritengo sbagliata perché le sentenze si rispettano, si cerca di ribaltarle, se ci sono le carte per ribaltarle, ma finché non c'è questo atto formale le sentenze vanno rispettate, quindi io la critico quella battaglia. Però per favore non confondiamo questo piano che riguarda la società con l'idiozia e l'assoluta inaccettabilità di quello che è stato scritto ieri sera, perché allora dovremmo cercare una spiegazione anche nell'atteggiamento nel Milan, per magari provare a spiegare perché i suoi tifosi scrivono lo striscione che è stato scritto su Pessotto, e poi allora dovremmo ragionare dell'Inter, della Lazio, della Roma e di tutti gli altri. Io credo che le due cose, Alessandro mi perdoni, vadano davvero tenute separate. Grazie comunque. Mario da Parma, buonasera. Buonasera. Prego. Tornando agli ultras, io ho avuto la fortuna di vivere gli ultimi 10 anni a Barcellona e sono un tifoso del Barcellona, chiaramente italiano, ma tifoso del Barcellona. dove ho visto come hanno in circa 3 mesi hanno debellato questo problema degli ultras delle curve, che tenevano la società Barcellona proprio con un cappio alla gola, entravano circa 20-25 mila persone gratis, no? Bene, in 3 mesi li hanno fotografati tutti, gli hanno ritirate le tessere di soci e li hanno mandati a casa. Non è più entrato nessuno di questa gente qui, Barcellona 100.000 spettatori, non ci sono più problemi. Straordinario Mario, lo ripeto, straordinario, però ha sentito prima Massucci e parla dall'Osservatorio del Viminale. Purtroppo i rapporti quelli che non si possono tenere tra i club e il mondo ultra non solo non si sono interrotti come prescrive la legge, anche il regolamento sportivo, ma risulta che proseguano, e questa settimana abbiamo visto gli stessi ultra che sono finiti sotto processo a Genova andare al campo d'allenamento per restituire la maglia numero 12. Ci provi lei ad entrare nel campo d'allenamento di una qualunque società, Dario? Facevo notare, no Giovanni, ragionavamo prima fuori onda, ma vale la pena condividerle, che cambia il linguaggio anche con cui raccontiamo queste cose, no? E oggi vedevo proprio sulla Gazzetta dello Sport a pagina 13, va allo stadio col DASPO, tifoso beccato in TV. Ma questo non è un tifoso, questo è un criminale, non è neanche un imbecille, è un criminale, perché viola un dispositivo dell'autorità giudiziaria. E poi la passione calcistica ha giocato un bruttissimo scherzo, eccetera eccetera. Ma quale passione calcistica? Quasi fosse uno scherzo. Ah, ma per sua sfortuna è stato beccato dalla TV durante l'incontro. Sì, esistono responsabilità anche di chi fa informazione su queste cose, ma del resto lo diceva anche Massucci, le norme ad esempio sugli striscioni sono state definite liberticide anche da molti osservatori neutrali, forse bisognerebbe avere un po' più attenzione a quello che si dice. Matteo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Giovanni, io proprio di questo volevo parlare, sono una voce un po' fuori dal coro. Bisogna capire, fare attenzione all'insulto, alla libertà di espressione, perché qual è il limite dello striscione? Se io vado allo stadio e vedo Juventini ladri, questo è consentito oppure no? Ma secondo me non dovrebbe essere consentito, poi esiste comunque un limite, se mi consente, però dica. No, era questo, qual è il limite e chi decide qual è il limite? Leggere su Topolino Rubentus, che tutti dicono è una, fatevi una risata, è consentito o no mettere Rubentus agli stadi? È difficile poi porre un limite e consentire e fare una valutazione. Certo, ce ne sono alcuni, come quello di ieri sera, io sono juventino, che è orribile, ma ho visto tante volte Israele, ho visto tante volte Milano Spera, Superga Bianconera, l'ho visto un'infinità di volte in questi Sicuramente non ci siamo fatti mancare niente da nessuna parte, certo. E noi non stiamo facendo un processo alla Juventus, questo lo dico rispondere ai tanti che stanno scrivendo, compreso Monica su Twitter. Ovviamente le cose sono gravi solo se c'è di mezzo la Juventus, mi sembra che lo spirito e l'approccio con cui parliamo al tema dovrebbe far capire che non ce l'abbiamo con la Juventus, anzi non ce ne frega niente nemmeno dello striscione su Superga. Certo, fa specie che avvenga tutto in uno stadio di proprietà, c'era stato detto che negli stadi di proprietà non ci sarebbero più state zone franche, evidentemente non è così. Grazie Matteo. Marco da Caserta, buonasera. Buonasera, niente, io volevo aprire una parentesi sul Milan. Prego, se possibile. Assolutamente. Posso chiederle, visto che si parla tanto di Guardiola come allenatore, Berlusconi, la bella mena, addirittura dicendo da Allegri, siamo interessati ad Guardiola. Io pensavo, se secondo lei vedere Guardiola più come allenatore, come responsabile del settore giovanile. Sì. Naturalmente nel senso di esportare quella che è la mentalità, in un certo senso fino a quanto è possibile, della cantera del Barcellona anche in una società diversa da quella del Barcellona. Sì. E chi meglio di Guardiola potrebbe farlo? Certo, io credo però Marco che sia difficile pensare a un responsabile del settore giovanile che guadagna 6 milioni netti all'anno, perché questo poi è lo stipendio di Guardiola, assolutamente giustificato anche nella sua versione di costruttore di un progetto come è stato quello del Barcellona. Però Guardiola, se viene al Milan, e io penso sia quotata all'1% di possibilità, abbiamo sentito Federico Casotti in apertura, Guardiola in queste ore è in Qatar ufficialmente perché gli offrono la panchina del Qatar verso i mondiali del 2014, ma lì ci sono anche gli sceicchi che sono i padroni del Paris Saint Germain. Insomma, se è davvero Guardiola arriverà al Milan, e ripeto, lo reputo davvero difficile, non sarà certamente per prendere in mano il settore giovanile. sarà per prendere in mano la prima squadra e costruire insieme al Milan un progetto che parte dal settore giovanile. Abbiamo ancora Cristian da Carpi, poi saluto già Dino Meneghin. Buonasera Dino. Buonasera a tutti. Con cui vogliamo chiudere questo appuntamento perché si è chiuso la sua esperienza da presidente della Federazione Nazionale della Pallacanestro e allora vogliamo tracciare il bilancio. Chiudiamo però l'argomento striscioni con Cristian da Carpi. Buonasera. Buonasera Giovanni. Prego. Guarda, io ho sentito prima il suo ospite delle cose giustissime. Io, come dicevo prima la sua collega, oggi ero in uno stadio a vedere una parete di Lega Pro e a un certo punto dei bambini della squadra giovanile, della squadra che ero a vedere, dai bambini stessi è partito un coro arbitro venduto, che in sé non è nulla, però gli allenatori che hanno visto vicino ai bambini non hanno detto niente e questo coro si è ripetuto. Quindi io credo che si possano fare tantissime parole sui tifosi, sugli ultras, ma se le stesse società non intervengono nei loro settori giovanili cercando di dare ai bambini, quindi di prevenire, educandoli a una cultura sportiva, credo che tutte le parole rimangano tali, non ci sia speranza di educare persone adulte se questa cosa non si fa sui bambini. Non c'è dubbio. Grazie Cristian per la sua testimonianza. Dino, credo che il basket non abbia questi problemi, però quando manca la cultura sportiva è un problema per tutto lo sport e non soltanto in questo momento, ad esempio, per il calcio. Beh sì, purtroppo anche nel nostro, anche se raramente, però anche da noi ci sono cose di questo genere che vengono puntualmente stigmatizzate, però purtroppo gli imbecilli sono sempre in giro. Cioè, la gente va allo stadio o al palazzetto non per godersi dello spettacolo sportivo, ma per scaricare magari le tensioni della settimana, cose del genere, cosa che non deve succedere, soprattutto quando, come sentivo prima, riguarda dei bambini. Loro devono essere assolutamente educati a godere dello spettacolo in campo senza eccedere in queste manifestazioni. Oppure, come diceva prima Guido Vaciago di Tutto Sport, se per caso hanno la sfortuna di imbattersi in striscioni come quelli di ieri sera sulla tragedia di Superga, che abbiano almeno dei genitori che gli spieghino che cosa è stato davvero il grande Torino. Dino, ci fermiamo un minuto per il traffico, poi parliamo di pallacanestro. Strade in diretta. 18 e 45 minuti, sono per un incidente le code in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra la barriera di Roma Sud e l'innesto con il raccordo anulare. Sono coinvolte due auto nell'incidente, di cui una si è ribaltata. Trafficata alle porte di Milano l'autostrada A4 tra Piero e Cormano in direzione Venezia. Rallentamenti in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Maltempo diffuso al centro-sud e soprattutto sul versante tirrenico, dove è nuovamente allerta meteo per le prossime ore. Oltre alla pioggia cadrà la neve in Appennino, già a 600-700 metri di quota. Attenzione anche alla nebbia sull'Appennino abruzzese. Non si vede oltre i 40 metri sulla A24 tra Serge e San Gabriele Colledara. Ed è tutto, a più tardi. Vuoi far crescere la tua azienda? Noi siamo al tuo fianco. Entra nel network di Fondirigenti, l'ente bilaterale di Confindustria e Federmanager per l'innovazione e lo sviluppo dei dirigenti. 15.000 imprese con 80.000 manager lo hanno già scelto. Accedi al conto formazione e presenta subito un piano formativo. Se sei una piccola e media impresa, scopri tutte le iniziative su misura per le PMI. Con i piani territoriali e settoriali puoi metterti in rete con altre aziende e realizzare iniziative promosse dalle parti sociali. Vai su www.fondirigenti.it e aderisci subito. Fondirigenti, innovatori per formazione. A tempo di sport. Intanto il campionato di basket saluta la prima sconfitta di Varese, è arrivata alla decima giornata 91-87, la Cimberio Varese è stata sconfitta a Roma 91-87. Dino Meneghin, dicevamo, si è chiusa proprio in questa settimana la tua esperienza da presidente della federazione. Bilancio personale, intanto eri uno dei pochi ex atleti a capo di una delle discipline del nostro sport. Secondo me è sempre una cattiva notizia quando un ex atleta lascia il posto a qualcuno che viene comunque dal mondo della burocrazia, della politica, degli apparati interni allo sport italiano. Però beh, guarda, diciamo che le prossime elezioni saranno il 12 di gennaio. L'unico candidato, l'attuale presidente del CONI, Gianni Petrucci, il suo ritorno è il suo, nella Federbasket è un ritorno, perché lui prima è stato segretario generale, poi presidente, e quindi il ritorno alla, alla FIP è sicuramente, non è un salto nel vuoto o al buio, ma sicuramente il ritorno di una grandissima persona e anche uno che ama veramente la pallacanestro, quindi sono sicuro che farà sicuramente grandi cose. Quindi lo lasci in buone mani? Ah, assolutamente, vuol dire nessuno, il fatto che non ci siano altri contendenti, vuol dire altri che aspirano al posto di presidente, la dice lunga sullo spessore della persona, ecco, e chiamiamolo pure anche tecnico, perché uno se ne intende di basket. Non c'è dubbio, ma difatti io mi riferivo anche ad altre discipline. Ieri ne parlavamo anche con Flavio Roda, presidente della Federsci, storico tecnico di Alberto Tomba, e abbiamo sottolineato il piacere anche di sentirlo parlare di sci e non soltanto di numeri, di conti, che poi fanno parte, io credo, ovviamente parte forse principale dell'attività di un presidente di federazione. Da questo punto di vista, il bilancio della tua esperienza? Ma guarda, devo dire che sono stati 4 anni sicuramente complicati, difficili, perché purtroppo hanno coinciso con una situazione economica del paese e di conseguenza anche del basket, cioè mancanza di soldi, insomma, o meno soldi da spendere o da trovare sul mercato, e questo ha complicato sicuramente il lavoro di tutte le società che lavorano nella pallacanestro, e di conseguenza è stato molto. Abbiamo assistito alla scomparsa di molte squadre, mettici anche il cambiamento delle regole da parte della comunità europea, che vede un mercato sempre più libero, quindi la difficoltà di trovare lo spazio giusto per i nostri giocatori italiani all'interno di un movimento professionistico, quindi è stato sicuramente complicato, però io, come tutto il Consiglio federale, abbiamo sempre lavorato prima di tutto con passione, come dicevo prima, cercando di tamponare le falle che si aprivano giorno per giorno, ma sempre con in mente quello che era il bene del nostro movimento, per salvaguardare quello che è prima di tutto l'attività di base, quindi lavoro nelle scuole, l'attività giovanile, con corsi di aggiornamento per gli allenatori, preparatori atletici. E poi via via a salire fino a quella che dovrebbe essere la punta di diamante di tutto il movimento, che è la nostra Serie A, che sta soffrendo, però tiene. Dario Ricci. Dino, ti aspettavi che il cognome Meneghin e la carriera adesso connessa ti avrebbe garantito qualche credito in più nel rapporto con la Lega, nel rapporto con i club, sempre così resti al cambiamento? No, questo no, perché non mi aspettavo favori di questo tipo, perché sono imprenditori che investono tantissimo nel nostro movimento e parlo non solo di tempo ma anche di risorse economiche. Quindi chiaramente loro sono pressati prima di tutto dalla incredibile voglia dei tifosi di vincere. Ora, se vinci sei un dio, se non vinci sei un fallito, e questo non è ammissibile. E quindi i presidenti, schiacciati da questa pressione, sono costretti ad andare a cercare sul mercato mondiale giocatori che offrono un buono spettacolo, che costino di meno e che garantiscono alla loro società un prosieguo nel cammino. Quindi è sicuramente non mi aspettavo favori, sono state sicuramente delle discussioni da parte loro per avere, come ho detto prima, far quadrare i bilanci, da parte nostra sicuramente quello di trovare lo spazio giusto per i nostri giocatori, perché potessero fare l'esperienza giusta e necessaria per garantire anche un futuro alle nostre nazionali, perché poi al di sopra, mi permetto di dirlo, al di sopra dell'attività bellissima e sicuramente notevole dei nostri club c'è la nazionale, perché quella poi dipinge un pochettino quello che è il nostro movimento. Quello che è il valore del basket italiano, che mi sembra di poter dire sta riemergendo in questi ultimi mesi, rivediamo la luce dopo anni difficili. Sì, anche perché è aumentata la concorrenza, diciamo, i rivali sono aumentati tantissimo. Quando giocavo io c'era la grande potenza della Russia e della Jugoslavia. Adesso poi c'eravamo noi, la Spagna, la Grecia, eccetera. Adesso con lo smembramento di queste due superpotenze si sono create forze nuove e fortissime, come non so, per la Jugoslavia, Serbia, Slovenia, Croazia, la Macedonia, tanto bene. Per quanto riguarda la Russia, la Lituania, la Lettonia, la Georgia, quindi le concorrenti sono aumentate. Altre nazioni che sono venute fuori come la Turchia, sì, non esistono Germania, più Francia. Partite semplici sulla carta, non esiste più l'avversario materasso. A proposito di concorrenza, è un bene per il basket italiano la fine del dominio di Siena? Ma questo, sai, Siena ha lavorato benissimo per creare un ciclo che durasse del tempo. È sempre molto difficile, è sempre più difficile creare un gruppo di questo genere. E inevitabilmente, quando una squadra vince per più anni, si parla di ammazzare il campionato. Succedeva ai tempi del Simmental, poi della Ignis, poi della Virtus Bologna o del Benetton Treviso. Chiaramente il fatto che non ci sia pronti via una squadra che viene reputata imbattibile dà un po' più di pepe a tutto il campionato e quindi più interesse ancora. Dario Ricci. Intanto, Dino, è finito il mini dominio di Varese sulla Serie A, no? Proprio nell'anticipo di mezzogiorno, il successo di Roma che può riattirare l'attenzione anche metropolitana della capitale sul basket. Sì, bello, passione c'è sempre. Chiaramente ci vogliono, come ho detto prima, ci vogliono risultati, però questa è la dimostrazione che Roma quest'anno sta lavorando veramente bene. È un passo falso per Varese, ci può stare, cioè, anche perché ha perso contro Roma, insomma, non contro una squadra non titolata, non forte. Non contro l'ultima arrivata. Ci può stare benissimo. Ti chiedo in 30 secondi invece se ti stupiscono le difficoltà di Milano. Ma Milano è una squadra che ancora una volta si è rinnovata moltissimo quest'anno, quindi ha bisogno di tempo per far quadrare un po' il conti, nel senso che Scariolo dovrà essere attento a stabilire delle gerarchie, quindi capire quali sono i 7-8 giocatori su cui puntare, e gli altri dovranno avere un po' più di pazienza. Anche qui ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza. Penso che la vera Milano si vedrà nel girone di ritorno e nei play-off. Sì, credo soprattutto nei play-off. Grazie a Dino Meneghin. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Dino Meneghin, grazie anche a Dario Ricci. Questa sera grazie non c'è palla spicchi perché c'è lo speciale sulle primarie del centro-sinistra. Allora rapidamente i parziali dei campi di pallacanestro. Bologna avanti 38-30 sulla Scavolini al 18esimo, 39-35 fra Cremona e Venezia. Siamo al 16esimo, Montegranaro perde di un punto in casa contro Bielle. Siamo al 17esimo, poi Juve Caserta 32, Cantù 29 al 19esimo, Reggio Emilia avanti di 5, 34-29 al 17esimo contro Brindisi. Abbiamo finito qui, un ringraziamento particolare a Giorgio De Luca in redazione, a Filippo Aureggi e Pietro Lacorte che si sono alternati in regia, un ringraziamento anche a Dario Ricci. Lo sport torna domani a partire dalle 14 con tutti convocati, con Carlo Genta. Un saluto anche da Giovanni Capuano.